Allora, professor Veronesi, un'alleanza importante, no? Quella tra la sua fondazione e la Lega Volley femminile. Quali gli obiettivi? Gli obiettivi sono di stringere sempre più i rapporti tra la nostra attività e il mondo dello sport, il primo obiettivo. Secondo è dare una testimonianza dell'importanza dell'agonismo nella nostra società che obbliga le persone a sfidare se stessi e a sfidare degli avversari che devono rispettare, conoscere, rispettare le regole e quindi una grande scuola di vita. E terzo, in questo caso, perché noi siamo grandi sostenitori del mondo femminile, pensiamo che le donne abbiano delle grandi qualità e quindi è un'occasione buona per dimostrargli. Non mancano gli esempi di atlete, donne, anche della Lega Volley, che hanno sfidato e vinto la loro battaglia anche contro il cancro, vero? Questo può essere la strada da seguire. Qual è l'esempio che arriva? Beh, le donne che fanno sport sono di regola delle donne attente al proprio corpo, ovviamente, e quindi controllano se stesse molto spesso. E se c'è una piccola imperfezione o un piccolo tumore, lo scoprono precocemente e guariscono. Quindi l'obiettivo e la missione numero uno è la prevenzione, no? Bravo, proprio questo.